Tuo parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Ma parla bene, ti si sente male come al solito. Vabbè, Parenzo, la cosa incredibile è che in questo paese oggi si parla della vicenda Maradona. La vicenda Maradona è una vicenda incredibile. Va da Fazio ieri e cosa dice Maradona? Fa il gesto dell'ombrello a Equitalia, in sostanza. Cioè, Equitalia che chiede a Maradona 39 milioni di euro, ma non perché abbia evaso tasse per 39 milioni di euro, perché si sono accumulati multe, il tempo che passa, ricorsi che non sono stati fatti, insomma la parcella è di 39 milioni di euro. Chiamatelo come volete, evasore fiscale, forse miserabile come dice Fassina, che è vice ministro. Comunque a un certo punto sulla televisione di Stato è un Fazio, diciamo, non particolarmente cattivo, non che lo sia mai cattivo, però insomma non è che poi va risposto a tono, eppure era sulla televisione di Stato e allo Stato deve 39 milioni. Troppe galline. Io non sono stato mai un evasore. Mai un evasore, se lo dico a Equitalia, Eco Francia, se lo dico a qualsiasi, perché io non sono andato a firmare il contratto, prima di tutto. Quello che hanno firmato il contratto si chiama Coppola e Ferlaino, e tutti e due possono andare per l'Italia tranquillamente, e a me mi tolgono gli orecchini, l'orologio, che vedi come sono, sì. Non andare. E poi a un certo punto fa il gesto dell'ombrello e poi dice anche che Equitalia si fa pubblicità su di me. Io voglio sapere la verità, voglio arrivare al fondo. Quello che fanno la pubblicità sono quello che Equitalia venendo da me. Questo si fanno la pubblicità. Quindi andrai. No, quelli si fanno la pubblicità perché loro hanno un altro lavoro, non è Maradona il suo lavoro. Era quasi partito un applauso in studio su Equitalia che si fa la pubblicità su Maradona. Vabbè, è scoppiato un casino perché Fassina questa mattina da Minoli ha detto Maradona ha fatto un gesto da miserabile. Dove lei non può arrivare mai. C'è un tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo canta. È un'evasione di sopravvivenza. No, è un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione. Stiamo parlando di quasi 40 milioni di euro e Maradona farebbe bene a imparare. È venuto giù un pieno Brunetta che dice Fazio peggio di Maradona, eccetera, eccetera. Brunetta non si fa mancare mai niente contro Fazio, non si fa mancare. Brunetta, appena sente la parola Fazio e Rai, subito come il toro quando vede il drappo rosso. È stato il fine settimana anche del signor Monti che devo dire la verità. Da salvatore della patria, come forse è stato nel novembre 2011, a salvatore di un cane, si mette a polemizzare con la Bignardi sul cane. Adesso va bene tutto, però insomma, che bisogno c'era di prendersela con la signora Bignardi dicendo è sceso veramente in basso. Ma perché questo? No, ma questo va detto subito: cioè cosa? L'uomo che della Banca Centrale Europea, l'uomo della Goldman Sachs che è lì a fa bubù con un cane. Ma sì, a polemizzare sul cane con la Bignardi, non se lo ricordo. Ricordava più nessuno questa vicenda del cane. Sentiamo Monti e la Bignardi. In Europa e nel PPE chi vi parla è considerato colui che in grave crisi finanziaria ha salvato l'Italia e ha salvato l'Eurozona. E in Italia chi vi parla è colui che in uno studio televisivo, dottoressa Annunziata, si è trovato tra le braccia di sorpresa, poco corretta, ad opera di una sua collega, collega è dire molto, un cagnolino. Però devo dire la verità, non mi sembrava particolarmente dispiaciuto il professor Monti all'epoca, anzi la cosa, diciamo, veniva considerata una grande mossa di marketing, di elettorale, di comunicazione e tutto. E la adesso birra? Poi la birra, eccetera, non mi pareva particolarmente scosso. Poi che bisogno c'è di... Non è vero che in Italia viene ricordato per il cane Monti. Poi ma alla fine rinnega anche se stesso quello che ha fatto. Ha fatto pure il servizio su chi del signor Signorini, scusami, col cane, ma dai. Sì, ha fatto tutto quello che bisognava fare in campagna elettorale. Dopodiché è andata male e adesso l'uomo evidentemente... Evidentemente ha sul groppone questa sconfitta. Vabbè, scusi, dove andiamo? Cucciari, voglio capire, dimmi, prima che lei inizi tutta la sua... No, abbiamo un ospite qui, è tornata la Zanzara. No, lo so tutto. Dimmi. Ma voglio capire un attimo, ci sono novità sul cadavere del gerarca? Cadavere del gerarca? No, non ci sono novità. No. Si attende il luogo sepoltura dopo accordo tra avvocato e autorità competenti. Ma dov'è sto Però ci sono cadavere? Altre due dov'è? Cose, non lo so, sempre a Pratica di Mare comunque, secondo me, non lo so. Benissimo. Briatore dice voto Renzi, senza Berlusconi voto Renzi. Briatore stiamo parlando, non è una novità, però. Matteo Renzi, io sono convinto che in questa situazione prenderà molti voti e se Berlusconi non è più in Forza Italia, io stesso voterò Renzi e non voterò il PDL. Lei voterà Renzi, quindi? Io voto le persone, io non voto la politica. Passiamo oltre la Santanchè che dice che Napolitano ha tradito, e però soffermiamoci su cosa? Su Gerardo Greco, conduttore di Agorà, che chiama Scelta Civica sciolta civica. No. Monti, l'attacco del governo, lo scioglimento, la liquefazione quasi di Scelta Civica e poi ovviamente la questione giudiziaria di Berlusconi. È un errore, caro Gerardo, è un errore, però c'è un lapsus forse freudiano in questa cosa. Va bene, 800 24 00 24, qui con noi un senatore proprio di Scelta / Scelta Civica, Gabriele Albertini, buonasera. Abbiate un po' di rispetto per gli anziani, visto che siamo senatori. Buonasera, David. Però, senatore, ciao carissimo. Bentornato, non caro, vi prosternate più come è accaduto altre volte. Però ho dovuto chiederlo a Cruciani di fare proprio l'adorazione atto, dei magi, come quella volta in aereo che avete fatto girare tutto, tutto l'equipaggio. Però scusate, vogliamo sempre ricordare Albertini. Gli ascoltatori non sanno la scena. No, bisogna raccontarla. No, ma io l'abbiamo già raccontata più volte. No, mai. Com'era questa roba qua? Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Vabbè, questo era quello che gridavano ad Albertini ai tempi della sindacatura di Milano. Sì, perché non avevo concesso il patrocinio. Il patrocinio al Gay Pride. Una storia già rimangata. Una protesta, sì, senta, ma lei definirebbe Maradona un miserabile? No, è un gran furbone, certo non è da considerare un esempio per nessuno sotto questo profilo, un grande calciatore, però dal punto di vista etico e della un gran furbacchione, però sì, miserabile dico eccessivo. Miserabile, insomma, quello del gesto dell'ombrello è un gesto miserabile. Insomma, indubbiamente è da censurare. Essendo una persona notissima in tutto il mondo, che prende le istituzioni del paese in cui ha lavorato e ha guadagnato, in cui è diventato certamente un personaggio molto conosciuto, sì, e quindi ha delle responsabilità, comunque l'ho trovato davvero disdicevole. E Fazio avrebbe dovuto dire qualcosa di più, secondo lei, con un gesto dell'ombrello fatto in guida? Fa il suo mestiere. Avevo una grande audience e se l'è tenuta come tutte le persone che fanno il loro mestiere. Però dire sciolta civica, tornando alle cose di Ciccia, caro Albertino. Qualcuno l'ha definita scelta cinica invece. O clinica oggi, addirittura. Oggi ne ho sentita una che non è male. Però a lei si della... può definire sciolta civica, ormai siete sciolti. Non è sbagliata come definizione. Qualcuno l'ha sempre detto, questo non è una cosa nuova questa, quindi il lapsus è anche un qualcosa che viene memorizzato, perché i detrattori fin dall'inizio. Ma vi dividete? Non lo so, siamo nati con provenienze diverse e cercando di mettere insieme il riformismo socialista, quello liberale, quello però cattolico. Lei prima mi diceva la maggior parte del nostro elettorato è di centrodestra. Questi sono dati di Pagnoncelli, il primo incontro che abbiamo fatto, 70 sì, deputati senatori, aveva analizzato i flussi elettorali, 36% del 3.200.000 vengono da ex elettori del PDL, quindi più di un terzo, e gli altri? 24% dal centro, 24% dal PD e gli altri dall'astensione. approssimando, cioè quanti del centrodestra in tutto? Abbondantemente il 65%, perché dall'astensione è più probabile considerare una parte di elettorato di centrodestra, perché in fondo la sinistra si è più coagulata su Grillo come voto di protesta. Lei, perché secondo lei Monti è passato, come ho detto prima io, da salvatore della patria, cosa che forse è stato, a bisticciare con la Bignardi? Cosa è accaduto? Guardi, io ho una grande stima di Monti, l'ho ribadito più volte, lo dico anche qui perché mi piace ricordarlo insieme a Montanelli, a Muti, a Martini, anche lui ha avuto la grande medaglia d'oro. La grande medaglia d'oro in questo ho dato solo 4 altissime onorificenze. Ma il suo limite qual è? Il cavaliere di Gran Croce è un campione di intelligenza e di moralità. Il leader politico richiede delle empatie, delle simpatie, delle capacità relazionali che evidentemente non sono nelle sue corde. Non è leader pur politico. Pur essendo un politico. Grande statista, perché ha dimostrato di salvare il nostro paese dal baratro, questo che viene considerato in Europa è reale, è un dato reale. C'è un dibattito su questo. Però il consenso che si riesce a ottenere facendo il medico d'urgenza richiede delle caratteristiche che... Però ha fallito, diciamo. Dai. Direi il 10%, tenuto conto della situazione del nostro paese, avendo imposto delle tasse a chi... Comunque non è leader politico, questo non è leader politico. Diciamo che non ha le caratteristiche, il DNA del leader politico. Infatti non se n'è mai occupato, ha fatto una scelta generosa nei riguardi del nostro paese di dedicarsi Alfano, per esempio, è più capace da questo punto di vista, signor Alfano. Lui deve dimostrare di salvare il paese dal baratro come ha fatto Monti. Però per essere considerato uno statista, un leader politico. È uscito dalla corte dell'imperatore, lei l'ha sempre definito uno nato alla corte dell'imperatore, è uscito un po' secondo lei? Sì. Il giorno in cui Silvio Berlusconi aveva chiesto aveva imposto, perché questo era un po' l'argomento, la caduta del governo, le elezioni anticipate, qualcuno ha detto di no, e tra questi anche Alfano. Quindi per cui è uscito dalla corte dell'imperatore. Ha dimostrato dal la sua indipendenza da quella, quando ha detto che sarebbe stato diversamente berlusconiano. Lei pure si sente diversamente berlusconiano un po'? Sì, io sono rimasto fedele a un Berlusconi, quello del 9 ottobre. Però anche lei è diversamente berlusconiano. Un po' la simpatia personale e la riconoscenza e la gratitudine per come è andata in lunghi anni di collaborazione rimane. Se poi ho fatto una scelta diversa negli ultimi, però si sente non un po' sciolta civica, scelta civica. Però si sente diversamente berlusconiano un po', sì. È una persona con cui mantengo un rapporto di simpatia. Molto diversamente nel momento in cui sono da un'altra parte. Oggi non ho condiviso tante delle ultime decisioni e certamente nelle ultime fasi, insomma, è assolutamente criticabile. Però anche Albertini si può definire diversamente berlusconiano. Se vuole definire, le voglio appiccicare questa etichetta. Mi vuole appiccicare l'accetta questa etichetta, se considera vabbè, ma la simpatia e l'amicizia tutto. Che restano a prescindere dai rapporti politici e dalle scelte, lo dice lei. Io sto ad ascoltare. L'accetta o no questa definizione? È una cosa, mi considero albertiniano soprattutto. traffico. Monellacci. La Zanzara. La Zanzara che punge nel vino. Sei ancora a casa, Evo? Siamo qui 800-24-0024, caro David, io sono curioso di sapere il parere del professor Tremonti oggi in Senato su Brunetta, perché Brunetta è ormai tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali. Professor Tremonti, buonasera, che ne pensa di questa popolarità di Brunetta? Guardi, veramente dire che Brunetta è popolare mi sembra una cosa paradossale. Persino il nome è sbagliato. So perché lo chiamano Brunetta, dovrebbero dire scemetta, e direi che è più adatto, perché nomina su conseguenze avevo. Addirittura, cioè scemetta, professor Tremonti, come scemetta? Io non l'ho mai capito, non so perché lo stavo ad ascoltare quando parlava di economia, di cose che neanche conosci, che ha studiato su Bignami, in Consiglio dei Ministri, faceva perdere tempo al governo, a tutti, una persona guardi, non so, potrebbe fare appunto l'uomo di spettacolo. L'uomo di spettacolo. Vabbè, grazie al professor Tremonti. Siamo sempre qui alla Zanzara con il senatore di scelta barra sciolta civica. No, no, no, abbiate rispetto. Abbiate che rispetto non vuole per il travaglio intellettuale. Che non vuole dirci se si separeranno, ma tanto si separeranno, lo diciamo noi. Ma Monti può essere un dilettante della politica, un po', sì. Un po' dilettante della politica. Un uomo molto impegnato nella politica. Il dilettante sembra uno che voglia divertirsi a fare qualcosa che non sa fare. Sono io un dilettante delle imitazioni. Però non lo sa fare la politica. Non lo sa fare. Beh, non è il suo mestiere. C'è una politica e una politica. Però c'è la politica del governo e ha saputo fare qualcosa che non ha saputo fare nessuno in quel frangente. E c'è la politica di che? Invece? E poi c'è la politica del consenso, dove per esempio non è capace di prendere Grillo, voti, Grillo da demagogo sagace è più bravo a prendere voti di Monti. Sì, ha preso dei voti sulla follia, però, cioè ha fatto scegliere la malattia agli italiani. Come la malattia? Sì, la malattia, cioè, la malattia. Protesta fine Grillo a se è una stessa. Malattia, stai dicendo. È una malattia del nostro paese, la demagogia pura, la protesta confluente dalla Notav alla Equitalia dell'artigiano lombardo o veneto che vota lei sulla decadenza di Berlusconi. Come voterà sulla decadenza di Berlusconi? Mi sia chiaro. Per sapere come voterò devo vedere la mozione che viene presentata. Se è una Berlusconi sola. Va messo fuori dal Senato o no, secondo lei? Io ero d'accordo, se vuole che facciamo una risposta secca non gliela posso perché dare la perché dare? L'argomento è complesso, quindi mi permetterà... deciderà all'ultimo secondo? No, non è questo che voglio dire. No, perché no? Intendo dire che è complesso l'argomento, quindi lei mi ha permetterà già detto che vuole rimandare, sì, lei ha detto che vuole rimandare alla Severino, la Severino alla Corte Costituzionale. Sì, ecco, ho dichiarato che e posso anche documentarlo, se mi permette, con qualche cosa in più del fatto di dire perché uno... No, vabbè, questo però... No, qua si è parlato molto dell'articolo 25 della Costituzione come se fosse soltanto concernente la legge penale. No, però questa cosa lei l'ha già detta, però io vorrei sapere... La vorrei ripetere, ma se perché se la sente di cacciare dal Senato Berlusconi, se la sentirebbe davvero di cacciare il Senato? Lei con il rapporto che ha. In questi termini, va affrontato l'argomento per gli aspetti giuridici, d'accordo, oltre che però dietro gli aspetti giuridici sono gli aspetti politici e umani, però lei che è stato così vicino a Berlusconi. Il rinvio alla Corte Costituzionale in questo caso sarebbe, nel senso che forse può ancora essere, se c'è una maggioranza diversa in assemblea rispetto alla Giunta, necessario e doveroso per il solo aspetto della retroattività. Però io sono d'accordo, io sono sicuro, senatore Bertini, che dietro questa roba qui, però ci sono degli aspetti che non sono solo giuridici, sono degli aspetti umani. Allora io le chiedo, vabbè, non solo lei... umani, anche politici, nel senso umani... come il PDL pone la questione della appartenenza a una stessa maggioranza senza questa delicatezza e questa sensibilità per un argomento però giuridico. Lei che è stato così vicino a Berlusconi, se la sente di votare per la sua decadenza dal Senato? Questo è interessante come cosa. Quando ci sarà la ratifica della sentenza della Corte d'Appello che l'ha condannato a anche due lì anni votare, da interdizione votare dai pubblici uffici, certo che bisogna votare. E lei aderirà a questa... In quel caso lì non è un quesito sulla costituzionalità, sulla retroattività di una norma. Lei comunque voterà sulla è un atto necessario. Comunque, secondo lei Berlusconi decadrà dal Senato, sicuramente. E lei voterà per la decadenza, non sulla Severino, sull'interdizione decisa dal Tribunale. L'interdizione dai pubblici uffici è una condanna indicato. Il Senato ha un compito di ratifica in questo caso. Dunque, in quel caso lei ratificherà e basta. In quel caso non credo che nessuno possa opporsi, lo può fare per partito preso letteralmente, però in quel caso lì la legge è legge. Nell'altro caso invece quello dell'applicazione retroattiva della Sibaglia, lei ha un'altra idea. È quello, no, ma è importante poterlo documentare. Attenzione, collegamento dall'aldilà. Paolo VI. Paolo VI. Grazie tuam quesumus domini. Mentibus nostris infunde. Ma scusi, otto qui angelo nunzianze. Che ne pensa del Papa attuale, Paolo VI? Papa Bergoglio è un grande fratello a cui la Chiesa tutta deve dare il consenso necessario per rigenerarsi. So che è complicato perché dall'aldilà giornale radio. Monti, l'attacco del governo, lo scioglimento, la liquefazione quasi di Sciolta Civica e poi ovviamente la questione giudiziaria di Berlusconi. La Zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Altro collegamento con l'aldilà, questa sera una puntata da quasi da seduta spiritica, Parenzo, da seduta che spiritica. Si è chiamato Padre Amort, scusa? No, innanzitutto prima abbiamo sentito Paolo VI dall'aldilà che ci arringava su Bergoglio e su altre cose, ma avete sentito per caso la storia di Lapo Elkan, no? La settimana scorsa intervistato dal Fatto, dice di essere stato sostanzialmente stuprato, oggetto di violenza a 13 anni quando era dei gesuiti. Beh, insomma, su questa cosa qui è il caso di chiamare in causa l'avvocato Agnelli. Avvocato, come sta? Come sta? Come ci si sente? Ma qui ci sta abbastanza bene, ci si annoia un po' perché sono un po' sempre le stesse cose, mi divertivo di più in terra, però sono beato. Soprattutto quando le donne, insomma, no? Com'è? Se lo ricorda, sì. Non me lo faccio dire, che poi San Pietro mi dice che non va bene usare questi termini correnti. La patonza deve girare, questo l'ho detto a Berlusconi. Sì, me lo ricordo bene, fatta avvocato. Girare, senta, avvocato, ma com'è su il tempo? Com'è? Sempre uguale su lì in paradiso, com'è? È un clima molto cordiale di simpatia tra i santi, i beati, le persone per bene che sono qui. Ma Berlusconi, secondo ci godiamo lei, lo Berlusconi spettacolo. Quando sarà tra tanti anni? Verrà lì dove lei? Ma oppure pare che voglia fare il presidente, non so se glielo lasceranno fare. C'è il presidente qui, di che del paradiso? Il presidente del paradiso, non so se glielo lasceranno fare. È un augurio, è tanto bravo. Col Milan ha fatto delle cose formidabili. Senta, ma è vera questa storia, secondo lei? Di suo nipote violentato a 13 anni, eccetera. Ma guarda, non credo possibile, perché i gesuiti diciamo, sono piuttosto seri, non credo che facciano queste cose. Ho visto anche Montezemolo, ha studiato ai gesuiti, si è cavata bene, anche altri, no? Direi proprio che... Poi non è mai stato in un collegio dei gesuiti, in non Italia, capisco come c'entrino queste cose. Sono cose dei giornali. Sono cose dei giornali. Va bene, grazie all'avvocato 800 24 00 24. Ma lei pure è stato da gesuiti, Albertini, no? Sì, ma non ho avuto nessun avanzo. Ma è possibile, secondo lei, che i gesuiti siano inchiappettiti? No, direbbe, guardi, Baffi, credo, non vorrei entrare su questo argomento. Signor Lapo Elkan. Non credo proprio, credo che siano o degli equivoci che avete, cioè, secondo lei, enfatizzato. Beh, l'ha detto lui. Ha detto anche il posto dove ha studiato, poi risulta che non c'è mai stato lì. Allora, questo direi che cancella qualsiasi possibilità. Cioè lei dice, Albertini, io sono stato dai gesuiti e sicuramente non può essere accaduto. Io non escludo che qualche evento ci sia stato, io non ho esperienza di questo, certo. E devo dirle, nonostante non quello che si possa pensare, no, ero anche piuttosto carino, devo dire, ma nessuno mi ha mai fatto avance né io ad altri, naturalmente. Era una scuola di soli maschi, e questo era il nostro problema, perché dovevamo andare a cercare le ragazze alle Marcelline, alle Orsoline, cioè facevamo degli sforzi giganteschi per trovare delle ragazze. Però c'era questo qualche, è stato il grosso limite. C'era qualche prete omosessuale anche lì tra i gesuiti. Può darsi che ci sia stato, cioè, però un ambiente assicuro, di tutti maschi, lei non può escludere che cosa, ci sia qualche maniera. Io non lo so, però non ho, cioè può darsi, cioè, lo posso lei dire statisticamente. Non crede, a questa storia non credo. Non ci credo, e poi comunque a questo punto, al di là del fatto che io ci credo, fuori no, nomi. Se non c'è stato nel collegio, come fa a dire che è stato, cioè i gesuiti sono brave persone alla fine, secondo la sua esperienza, naturalmente. Beh, diciamo la Papa Bergoglio, che è un gesuita, penso che potrei dire, per di più è così originale, come è sempre nella loro storia, di chiamarsi Francesco. Pensi un po' quanto sono bravi, dice. Io ho una vera venerazione per l'ordine dei gesuiti, addirittura. Davvero? Beh, ci sono stato 12 anni, Per cui l'ha trovata anche come un'offesa questa cosa di Lapo Elkan, che dice senza... Ma no, io non giudico quello che non ho ascoltato. È dimostrato, ormai è acquisito, che non c'è stato in un collegio dei gesuiti. In e quindi Italia. Mi domando come possa affermare di e poi essere tiri stato coinvolto. Uno che dice una cosa così grave dovrebbe anche dire no, nome e cognome. Potrebbe che siano morti le persone che non so... Però dovrebbe essere più esplicito se uno accusa, no? Fa un'accusa così pesante, o sbaglio? Beh, potrebbe esserlo, comunque non vorrei nolite giudicare. Senta, però una cosa rimane da chiarire, ma è vero o no che si stanno facendo delle liste di proscrizione tra voi, diciamo, tra voi più governativi, ecco, chiamiamoli così? Ma guardi, è vero prima no, di venire alla Grillo, prima alla di Grillo. Venire in questa ho ricevuto la telefonata di un collega, sì, senatore che mi ha telefonato allarmato perché pare che circoli un documento di cui ancora non si conosce, almeno io non l'ho visto, né la paternità né il contenuto analitico, però pare che sia un documento che dica sostanzialmente questo: noi decidiamo una scelta e poi chi non è d'accordo lo espelliamo. Beh, insomma, se il partito Scelta Civica ha i connotati per essere di esempio nella politica italiana, vogliono fare una cosa come volevamo essere e come vorremmo essere, nel senso che armonizziamo le nostre opinioni, discutiamo, però ci rispettiamo. Parlando di, appunto, di gesuiti, ci sono i peccati e i peccatori. Ci sono le opinioni divergenti e il rispetto per gli altri. Io spero e penso che non ci sia niente di tutto però, questo. Però se ci fossero sarebbe una cosa alla Grillo quasi. Beh, insomma, Grillo ha espulso delle persone semplicemente perché hanno opinioni diverse. Opinioni diverse, certo. Infatti sono andate nel gruppo misto e non finisce qua. Io prevedo che prima della fine della legislatura una buona metà dei grillini, sempre che duri, perché se finisce presto non avviene. Cioè, secondo lei i montiani potrebbero fare come Grillo? No, io spero di no, cioè questo lo dice lei, non me lo faccia dire perché è una cosa che mi ripugna addirittura solo pensarlo. Se fossimo in una situazione diplomatica, no? Un documento che prevedesse delle proscrizioni per chi non è d'accordo dovrebbe essere bollato col termine fin de non recevoir, cioè non lo guardo neanche. Spero che così avvenga, cioè che non venga neanche presentato. Grazie al senatore Albertini, grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao David. Siamo qui, Enzo da Napoli, buonasera, 800240024, Enzo. Buonasera Cruciani. Senti, innanzitutto ti saluto, però ti chiedo di farmi parlare, di non interrompermi. No, vai, dimmi. Ok, senti una cosa. Io ho previsto che Maradona le tasse le doveva pagare, vabbè, tutto quanto, eccetera. Una cosa che non sono d'accordo, anzi sono felice per l'ombrello che ha fatto Maradona all'Equitalia. Sì, so che è una cosa molto popolare, che tra gli italiani l'ombrello di Maradona a Equitalia è una cosa che fa godere tantissimo. Infatti abbiamo goduto come maiali, come si dice pure a Firenze. Cioè lei ha goduto come un maiale? Come un maiale, perché quello che mi ha fatto a me Equitalia è fare che praticamente... Ma dimmi una cosa, ma chi è che si deve vergognare? Maradona vabbè si deve vergognare magari per il gesto, ma Equitalia che è forte con i deboli e deboli con i forti, abbiate pazienza. 800 no, però scusi Enzo, qui non è un dibattito, ma qui non è un dibattito su Equitalia, qui no, il punto è un altro, deve o no 39 milioni di euro al fisco italiano? Lui dice di no, il fisco dice di sì, ora la possiamo mettere come vogliamo, lei da che parte sta, di Maradona o del fisco? Io so, da parte di non posso stare da parte di Maradona perché se è vero che ma non è che ha evaso 39 milioni, ha evaso delle tasse, non ha fatto mai ricorso e sono accumulati i soldi, si sono accumulati. Ma perché non avrebbe fatto mai ricorso Maradona? Perché non avrebbe fatto? Ma perché all'epoca se ne fregava, su Simone dalla provincia di Firenze, un attimo, Simone dalla provincia di Firenze. Sì, buonasera. Io volevo fare un parallelo fra Maradona e Monti. In che senso, scusi? Nel senso che Maradona ha fatto quello che, come diceva il telespettatore, l'ascoltatore di prima, probabilmente vorrebbero fare gran parte degli italiani. Ma gli italiani lo fanno a Equitalia per farlo alla classe dirigente. Monti sta sbandierando e tutta l'Europa sbandiera che ha salvato l'Italia, ma dal punto di vista degli italiani non ha salvato un bel niente, ha aumentato le tasse, ha cambiato nome e allora è per questo che gli italiani si ritrovano nei gesti plateali che fa Maradona, perché ha il coraggio di farlo e quello vorremmo fare tutti. Cioè, ma anche lei farebbe così, vorrebbe fare così a Equitalia? A Equitalia in particolare. Ma quello se ne fotte, quello se ne fotte perché vive in Argentina, non viene in Italia, cioè per 39 milioni di euro in qualsiasi altro paese ci sarebbe. Ma gli ritirassero il passaporto subito adesso, e lo tengono qui, lo dovrebbero trattenere, se fossimo un paese serio, all'uscita degli studi di Corso Sempione alla RAI di Milano, lui avrebbe dovuto trovare tre camionette. Esagerato, dai, su, esagerato. Ma è stato invitato dalla televisione pubblica. È stato invitato dalla televisione pubblica. Ma come chi se ne frega? Lo Stato lo ha invitato. La RAI, Radio Televisione Italiana, lo Stato italiano, ha invitato il signor Maradona. Lo Stato. Se lo Stato lo considera un evento, non lascia stare la RAI a fare. Ma come no? È la RAI. Ma io non sto dicendo. Mica la Gestapo. Mica la RAI fa ispettorato di polizia. Chi se ne frega? la stupidaggine. La RAI non è la Guardia di Finanza. La RAI lo sì, però era noto benissimo. Che andava da Fazio, no? Era noto che andava appunto, da Fazio. Dico, siccome era noto, bisognava dopo l'intervista fargli trovare tre camionette. E che facevano? Polizia, lo arrestavano? Con anche i cani. Lo arrestavano? I cani? Magari anche il cane di Monti, tutti i cani lì fuori, Dudu, tutti i cani della Guardia di Finanza con Dudu, eccetera. Io dicevo, scusi signor Maradona, lei deve allo Stato questo, si difenda. Lo prendevano, lo portavano come un cittadino qualunque. Vabbè, e poi? D'accordo che... E poi gli chiedevano i soldi. Ma gli chiedevano, ma già gliel'hanno chiesti, un attimo che c'è la borsa. E la patonza deve girare. La Zanzara. Io non sono stato mai un evasore, se lo dico a Eco Italia, Eco Francia, se lo dico a qualsiasi, perché io non sono andato a firmare il contratto, prima di tutto. Quello che hanno firmato il contratto si chiama Coppola e Perlaino, e tutte e due possono andare per l'Italia tranquillamente, e a me mi tolgono gli orecchini e l'orologio, che vedi come sono. Sì. Fassina miserabile. È un'evasione di sopravvivenza? Che no, è un gesto da miserabile e credo che vada perseguito con grande determinazione. Stiamo parlando di quasi 40 milioni di euro e Maradona farebbe bene a imparare. Allora, la cosa incredibile è che Gianni Minà, che è un amico di Maradona, che è uomo di sinistra, eccetera, quando si tratta di evasione fiscale degli altri, è il primo lì con la spada, no, a picchiare duro. Adesso invece il gesto dell'ombrello di Maradona al fisco dice che era uno scherzo, che era una cosa chiaramente ironica e che Maradona deve ancora ricevere i compensi per 3 puntate a Ballando con le stelle da parte della Rai. Allora, dite che la battaglia contro Equitalia di Maradona e del suo avvocato è giusta, perché Equitalia sono dei ladri, perché Equitalia non vogliono sentire ragioni, perché Equitalia prende degli interessi pazzeschi. Fate questa battaglia oppure silenzio, oppure no, considerate Maradona, amico vostro, un evasore fiscale a tutti gli effetti. Dai. Luciano da Palermo, buonasera. Cioè io ti buonasera. Dico che Gianni Minà, se Berlusconi avesse fatto quello che ha fatto Maradona, cioè pensa che Berlusconi che va in televisione a fare te al fisco, no, così dico, dai su dico, appunto, dai, lo dico io, e dai lo, dico io. Lo avrebbero linciato, lo avrebbero dai, linciato dai su dai. Oh, ci sono quelli accampati a Porta Pia, meglio la tenda di Gheddafi, amici miei, meglio la tenda di Gheddafi che le tende di nulla facenti, di perditempo a Porta Pia. Tra l'altro sono 4 tende, 5 tende di persone che non hanno nulla da fare nella vita, e con pieno di telecamere, sono più le telecamere e i giornalisti là intorno che quelli in tenda. Va, sentiamo qualche voce. Io non ho visto altro che qualche bombetta, qualche petardo. Beh, comunque noi abbiamo proprio tolto dalle mani pure dei sassi, ma sono dei ragazzi, magari i ragazzi hanno anche molta rabbia. Questa qui è stata una giornata vinta. Il piano si avvicina, ti sembrerà una festa un poco sadica, sadica, ma nello zanzaro. Qui in piazza perché sono andata a Torino, perché avevo una borsa di studio, 2 mesi dopo che sono arrivata me l'hanno levata. Come fai che non hai più la borsa di studio? Occupato, non pago un affitto, quindi lavorando posso studiare. Questo ha occupato una casa, non paga l'affitto, ha occupato. Ma fate come gli altri che fanno i sacrifici, no? Fate come gli altri. La casa non è un diritto. Lavorate quando è possibile, fate un mutuo e compratevela sta casa, non rompete i coglioni, su. Dai. meglio la tenda di Gheddafi che le tende a Porta Pia. Meglio la tenda di Gheddafi, almeno aveva un senso, almeno aveva un senso storico, aveva il senso di una storia, di una storia. Tu sei arrabbiato all'idea delle amazzoni, ma non è ma non c'entrano niente le amazzoni. Meglio la tenda di Gheddafi che le tende a Porta Pia. Sgomberate, sgomberate la città da queste, da, da una vista orrenda a Porta Pia. Ma no, ma qui ci sono anche simpatici. Ma che? Ma non me ne frega niente se sono simpatici o no, che me ne frega. Luciano da Palermo. Simpatica che dorme nelle mi fai sentire Luciano da Palermo? Per... Ma chi se ne frega? Ma chi gliel'ha chiesto? Luciano da Palermo. Sono sulle bare, sono quelli che quei violenti lì che hanno tirato sassi. Vabbè, ma quello è, ma quello va da sé, quello va da sé. Luciano da Palermo. Luciani, posso parlare? Sì, dica. Oh, senta, io devo venire lì a prendere a Parenzo, che lo devo portare a Palermo e lo devo portare in un'area di parcheggio. Però a deve venire con me. A che fare? No. C'è l'invasione dei froci. Ma dove? La Sicilia è invasa dai froci. Ma lei fa che... scusi un attimo, ma lei che cosa fa? L'autotrasportatore? No, io non faccio l'autotrasportatore. Ma... Io mi fermo all'area di parcheggio ogni tanto. Anzi, vabbè, ho capito, ci sarà qualcuno... No, Parenzo, non Cruciani, Parenzo, senti. Tu ti devi fare una passeggiata. Dove? E prendi l'autostrada Palermo, tu. L'autostrada Palermo cosa? Autostrada Palermo-Trapani. E allora? A un chilometro e mezzo prima di Castellammare del Golfo c'è un'area di parcheggio. Si chiama area di parcheggio Costa Gaia. Forse i froci l'hanno preso dato che c'è scritto. Ma chi Gaia se ne frega? E ma come frega frega, siccome voi li difendete sempre. Ma allora, chi difende ma... Io non difendo nessuno. Voi, ma non, ma non sono una categoria a sé i froci. Non sono una categoria così separata dal mondo. Tutti insieme i froci. Scusi. Io quando posso venire a prendere a Parenzo con l'autoambulanza che lo porto qua. Ma io con non ho nessuna intenzione. Così, guarda, senti un attimo, Parenzo. C'è questa. No, intanto, senti, intanto mi diede lei perché non abbiamo mai mangiato la minestra insieme. Ci ha levato i lampioni, le luci, li ha tolti. E poi la polizia arriva con i fari di notte e illumina a giorno tutto il coso. Scrive tutti i nominativi. Vabbè. Insomma, è un casino. Ora ti dico questo, Cruciani. Senti, io ti seguo sempre. Io sono meglio, meglio la tenda di Gheddafi che le tende a Porta Pia. Meglio la tenda di Gheddafi che le tende a Porta Pia. Allora... Senti, Cruciani, ma che fai? Cambio discorso. No, ma era così per ricordare. Allora... No, no, ti stavo dicendo, io veramente dico, io non ce l'ho contro i gay, perché allora... sono gay, però l'invasione, l'invasione. Ma abbiamo quale invasione? Ma quale invasione? L'invasione, spuntano come funghi. Ma come non è funghi. Vero, vabbè, Luciano... Cioè la Sicilia, ma... che era considerata la terra degli uomini, dei maschi, ora come cazzo è andato a finire? Ma Cruciano? Quando mai, Luciano? Ma non ci fate tutto questa propaganda, ma quale propaganda? Ma quale è una cosa assolutamente insopportabile, guarda. È contro natura. Oh, abbiamo con noi l'avvocato Paolo Giachini, avvocato della famiglia Priebke. Buonasera. Avvocato, come sta? Io bene. Ma non è ancora partito per il Sahara? Ho sentito che si prepara a fare una sgroppata su una moto in Sahara. La cosa mi ha particolarmente affascinato, devo dire la verità, caro avvocato, perché uno che ha 63 anni come lei si mette sulla moto e va su Sahara, va nel Sahara con la moto, no? Quando parte? Ognuno ha i suoi gusti. No, beh, perché lei ne ha diciamo, quando parte lei, discutibili. Parenzo, stai zitto, fai parlare un attimo. Quando parte, avvocato? Senta, preliminarmente, sì, per poter toccare le questioni, io avrei bisogno di chiarire un punto, sì, sulla base del quale poi possiamo andare avanti. Come nella no? Discussione. Vada. Allora, il primo punto che vorrei toccare è che il nostro paese, sì, ha un articolo 3 della Costituzione, sì, che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. Perché lei vuole dire questo? Senza distinzione. No, ecco, preliminarmente, così noi sulla base di questo noi poi possiamo fare qualunque discorso. Ma questo qua, un avvocato. Ma lei pensa che questo qua, senta, non sia... Io non accetto censure, se le va bene bene, se no... No, ma si figuri. Allora mi faccia finire. Ripeto, ricomincio da capo. Sì. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, sì, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua e di religione. Sì. Di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Sì. Dopodiché c'è un altro articolo, il 19 della Costituzione, che garantisce libertà di culto e di pratiche religiose a tutti indistintamente, sì, senza discriminazione. Prego, possiamo parlare. No, perché lei vuole, ha fatto questa premessa, avvocato? No, sono curioso, perché sembra che lei faccia questa premessa perché noi non rispettiamo forse questi articoli. Io li rispetto in pieno, infatti lei è qui a parlare. Scusi, ma perché nominare la Costituzione deve essere qualcosa che fa paura a qualcuno? Beh, guardi, l'avvocato di Priebke, che con la storia che ha, che cita la Costituzione come mettere un gatto a guardia di un ristorante di pesce, guardi. Perché? Che ha fatto? Parenzo, che ha fatto? Non ho capito, perché non può difendere Priebke, non ho capito. Lui che cita la Costituzione, che ha difeso un criminale nazista e che è amico di nazisti e di altri criminali sparsi per il mondo, tipo Telfo Zorzi e quant'altro. Primo, fastidio. Lui che viene da una famiglia Mi fai fare le domande, per favore. Puoi dire due o tre domande prima che l'intervista finisca, perché giustamente tu non è che viene chiamato per sentire tu che sbraiti contro. Allora, stai un attimo. Ma stai tranquillo, fammi fare due o tre domande e poi intervieni. Allora, io volevo chiedere all'avvocato Giachini, siccome c'è una sulla vicenda della sepoltura di Priebke e del luogo, c'è una leggera differenza di interpretazione. Lei ha detto sarà un luogo dove potrà venire la gente a rendere omaggio a un simbolo di libertà, dignità e sopportazione. Ma allora verrà reso noto questo luogo? Guardi, su questo punto il mio mandato non mi permette di aprire la discussione. Io sono stato in tutti i modi e definitivamente sia da parte delle istituzioni sia da parte della famiglia che mi ha dato la procura a trattare, mi è stato richiesto di non trattare l'argomento. Sì, no, d'accordo, io ho capito che lei non può dirci il luogo, perché va bene, però se lei non posso trattare l'argomento. No, però se lei ha detto che sarà un luogo dove si potrà rendere omaggio a un simbolo, è evidente che questo luogo. Questo lo dice lei, io non l'ho mai detto. Ma ho letto dei virgolettati da qualche parte, lei dice di non averlo detto. I virgolettati, le virgole le so mettere anch'io su qualunque cosa. Io non ho mai detto questa cosa, quindi non la confermo e poi non tratto questo argomento. D'accordo, però da un punto di vista generale si può tenere segreta la tomba di qualcuno? Perché secondo me non si può tenere segreta la tomba di qualcuno. Benissimo, ha una buona opinione, mi interessa, interessante la sua opinione. No, ho capito, però si può tenere segreta la tomba. Atto che lei ha questa opinione. È la sua, vorrei sapere la sua però. Allora, scusi, allora non mi sono spiegato. No, ma in termini generali dico, non riguarda Priebke. Tutti i cittadini hanno. Siamo in Italia, c'è la Costituzione, ognuno fa quello che crede, se non viola la legge. No? Avvocato, sì, certo, io le sto chiedendo, secondo lei è possibile tenere segreto la tomba di qualcuno? È possibile che nel tempo resti segreta la tomba di qualcuno? Quindi questo è un giudizio sulle capacità che hanno chi, le autorità? No, ma in generale, secondo me la tomba di qualcuno non si può tenere segreta per sempre, cioè prima o poi qualcuno si scoprirà, basta seguire un parente che va lì a depositare. Lei mi chiede se poi, secondo me, qualcuno poi spiattella dov'è la tomba di Priebke. Diciamo questa valutazione che lei fa, che secondo lei prima o poi. Ne prendo atto, insomma, non la ritengo effettivamente una cosa impossibile, ne prendo atto, ma comunque non è una cosa che dipende da me, io poi non è che sono uno specialista sulle casistiche degli spiattellamenti della tomba di Priebke, insomma. Ma non secondo so lei cosa succederà? No, non so, mica un indovino. No, scusi, ma ho capito, però in termini generali tenere segreta la tomba di qualcuno mi pare un'operazione molto difficile. Comunque oggi benissimo, ecco, vabbè. Ne prende atto. Senta, ma lei ha detto che in sostanza siamo riusciti, come dire, a non farci mettere i piedi in testa dalla comunità ebraica. Ma ha avuto paura in questi giorni lei, aver ricevuto minacce da parte di ambienti ebraici, lei come avvocato? Ma guardi, le minacce io le ricevo ormai da molto tempo, insomma, hanno tentato anche di aggredirmi sotto casa, ma questo non è un problema, no? Perché quando uno fa qualche cosa di difficile, di pericoloso, che non piace a tanta gente, si deve assumere anche la responsabilità che tra quella gente ci sono anche dei violenti. Questa è la prima cosa. Poi io, attenzione, le parole che la stampa ha voluto interpretare in quel modo non erano parole polemiche e mi guardo bene dal rivolgere parole polemiche. Ha detto che non si è fatto. Mi faccia finire per cortesia quando parlo io. Ho letto sui giornali che io parlavo di ebrei, io parlo di comunità ebraica. No, lei ha parlato di comunità ebraica e non di ebrei. Ecco, di comunità ebraica, alla quale io, diciamo, per questa vicenda Priebke sono vicino sul piano umano, nel senso che la comunità ebraica ha pagato un tributo 70 anni fa fortissimo in però, questa vicenda, ma questo però, è un discorso, ma questo è un discorso. Ma ci sono estremisti nella comunità ebraica, secondo lei? È certo che ci sono, perché sennò sotto casa mia non tentavano di aggredirmi e non continuano, smettevano di farmi minacce. Ma questo, gli estremisti ci sono anche a destra, ci sono a sinistra, l'abbiamo visto anche. Ma chi è che ha tentato di aggredirla della comunità ebraica? Scusi, come fa a sapere che sono della comunità ebraica? Guardi, c'è in corso un procedimento penale dove la polizia ha in mano fotografie, nomi, sta indagando, quindi già sono venute fuori le prime cose, quindi abbiamo le idee chiare. D'altra parte, io ho avuto minacce anche direttamente, anche via email, da persone che hanno lasciato il loro nome e cognome, quindi non ho difficoltà. persone in vista della comunità ebraica? Ma guardi, non è una cosa che mi interessa molto, in vista o non in vista, ritengo la cosa di poca importanza, insomma, il fatto di fare minacce a me, come ripeto, me ne assumo la responsabilità, e certo uno non va a difendere prima che poi pretende che tutti lo amano, quindi no, so quello che non c'è molti quello mi non amano c'è e quindi me ne assumo la responsabilità. Senta, ma adesso farlo passare per vittima anche, ma non lo sto facendo passare per vittima, gli sto dicendo una cosa. Ma perché lo stai dicendo? Farlo passare per vittima, ma non lo sto facendo passare per vittima, sto facendo raccontare una. Ma neanche la madre lo ha minacciato. Beh, no, che le minacce siano arrivate non c'è dubbio. Vabbè, ma ho capito, Davide, saranno arrivate le minacce. Ma chi lo ha minacciato? Stiamo parlando di un signore che fino all'altro giorno era sconosciuto ai più, è balzato alle cronache perché ha difeso quel criminale nazista, sì. Lo ha difeso con orgoglio, lo ha difeso, sì, purtroppo dico con orgoglio, rivendicandone. Sì. Ha creato un caso sulla salma di questo morto, che prima ce lo dimentichiamo, meglio è per tutti quanti, e ha fatto la sua fortuna. Sai che non sono d'accordo su questo. Il criminale nazista ha fatto la fortuna di questo signore, allora, qui. Che sentiamo sulla fortuna. È. Avvocato Giacchini, lei quanto ci ha guadagnato dalla vicenda Pribica? Quanto ci ha guadagnato? Guardi, ritengo questa una bassa guadagnato come parcella, avvocato. Mi faccia finire, mi fa una domanda e devo rispondere. Ma è questo? Lei dice questa cosa, quanto ha guadagnato come parcella? Io le rispondo, diceva Dante, ognuno dal proprio cuore l'altrui misura. Lei è una persona evidentemente molto venale. Perché venale? Lei fa l'avvocato, perché no. Che male ci sarebbe, scusi avvocato, che male ci sarebbe guadagnare da un proprio cliente, scusi? Se lei non ha guadagnato nulla, ce lo dica, io non ho mai preso un euro dalla famiglia Pribke per questa vicenda qua. Se invece ci ha guadagnato, io le faccio una domanda, lei può dire il mio segreto professionale, non vi dico quanto ho guadagnato. Non è che ci sono insinuazioni, perché insinuazioni? Lei fa l'avvocato, non è che fa il benefattore, no? O no? No, lei ha parlato con il suo collega poco fa dicendo lui era uno sconosciuto, faceva. Guardi, la sto anche difendendo, difendendo. Non ci sono problemi, io ritengo che queste non siano basse intinazioni alle quali non rispondo, e non ritengo che la gente che le fa sia all'altezza di colloquiare su questo piano con me. Ma no, scusi, non ho capito perché l'articolo, ha visto l'articolo 3. Ma sì, ho capito, ma certo, ma non c'è dice un po' quello che ma vuole. Certo. Lei la pensi così. Ma io non lo sto pensando così, ma scusi, no, dico, lei pensa quello che vuole, io penso che le persone che hanno bassi sentimenti, sì, non sono meritevoli di mie risposte su certi argomenti. Ma perché io dovrei avere bassi sentimenti se chiedo a un professionista quanto ha guadagnato da un suo cliente, scusi? Perché sono bassi sentimenti? Deve, allora glielo spiego, lei non ha nemmeno la sensibilità di capire che stiamo parlando di una persona che è morta da poco, che è stata in 20 anni a casa mia. Lei è molto rozzo. No, perché rozzo? Scusi, avvocato. È io molto sto... grossolano, veramente. Io con gente come lei non sono molto abituato a parlare. No, però scusi, avvocato, io davvero non capisco. Ognuno ha i sentimenti che vuole. Lei ha chiarito quali d'accordo, sono i suoi. Io non mischio i miei sentimenti con i suoi. Per carità, per carità. Non li mischio. C'è problema. Ma non mi sto facendo del rozzo, mi ha detto che sono rozzo, pazienza. Ma no, ma che gli devo dire? Lo devo ammazzare perché mi dà del rozzo? No, secondo me non lo sono, mai, che devo fare? Mi dà del rozzo, mai. Secondo me gli ho fatto una domanda normale. Ammazzare mai, il suo cliente ha ammazzato, noi in democrazia mai abbiamo usato la forza, la violenza. Ammazzato, sì, certo che ha ammazzato, su questo il suo non c'è cliente dubbio. Ha ammazzato. E poi cita la Costituzione, guarda, scusi, avvocato, è d'accordo? Lui ha parenti della Repubblica Sociale Italiana, no? Poi anche se avesse parenti che hanno militato nella Repubblica Sociale Italiana, quale sarebbe il problema? Scusa, non ho capito. Spiegherebbe tutto, non dovrebbe citare la Costituzione, visto sei che banale, quelli erano sei banale, dipendenti sei banale, dai tedeschi, sei banale. Dipendenti dai tedeschi. Avvocato, è d'accordo con Prip che quando dice che Via Rasella è stato, insomma, nella sua ricostruzione di Via Rasella e delle Ardeatine come conseguenza di Via Rasella, eccetera, eccetera? È d'accordo con quella ricostruzione là di Prip, che sì o no? Guardi, quando prima che parla di quella cosa lì di Via Rasella, quando il Boia vuol dire un periodo nel quale io non ero nato, quindi non assumo nessuna responsabilità o coinvolgimento, sì, di quelle, diciamo, noi possiamo parlare anche di questo argomento. Allora facciamo una trasmissione nella quale io le spiego, sì, le spiego che cosa è stata Via Rasella e cosa sono state le Fosse Ardeatine nel quadro rimane conflitto, mi faccia finire. Sì. Adesso noi è troppo lungo, è troppo lungo. Scusi, io nel 1944 non ero nato, quindi però... non devo assumere nel quadro delle mie teorie. Scusi, però io le sto... quello che diceva prima, io le ho chiesto la ricostruzione di Pripiche su Via Rasella, la trova concorde sì o no? Non ma è... non è questa la sede di parlare. Non la sede di parlare, no, non vuole rispondere. Allora le spiego, qua parliamo di argomenti importanti che hanno un loro valore, certo, non c'è dubbio. Non sono, scusi, mi faccia finire, non sono valori, non sono discorsi da botte e risposta così, no, tanta carne macinata. Allora, se vogliamo fare un discorso, lei, io sono disponibile. È molto complesso, serio. Dice lei dice... No, è appunto, lei, io le dovremmo parlare di che cos'era la rappresaglia prima della fine della guerra. Dobbiamo vedere come Norimberga ha giudicato poi successivamente la rappresaglia. Certo. Dobbiamo vedere una... Ecco, però, quindi, non posso affrontarla adesso, però sono disponibile, do la mia piena disponibilità per questa ricostruzione di tipo storico-giuridico. Va bene, d'accordo. Lei non è in grado di dirmi nemmeno se per la ricostruzione di Pripp, che secondo lei sono argomenti troppo complessi. Senta, un'altra cosa. Le posso chiedere per chi ha votato, oppure è un segreto? No, non è un segreto. Alle ultime elezioni non ha votato? Non voto, non voto. Non vota. E un'altra cosa, ma è vera questa cosa? La cosa mi ha fatto molto ridere, devo dire la verità, che lei l'unico lusso che si concede, oppure anche là la stampa ha sbagliato, è quello di andare con escort di lusso? Guardi, non credo che questo sia l'argomento da trattare in questa sede. No, ma era curiosa la cosa, siccome adesso c'è la pubblicità. Senta, faccia una cosa, organizzi una bella trasmissione sulle escort. Beh, guardi, lo faccio più volte, guardi. Ecco, allora non è la prima quando volta. Parliamo di escort, perché ovviamente le ripeto, quando parliamo di escort, perché adesso stiamo parlando di un argomento un pochino diverso, ma io sono disponibilissimo a affrontare l'argomento delle escort. Sono d'accordo. Della prostituzione. Stupendo, di cosa è stata storicamente la prostituzione. Sarebbe meraviglioso. Di cosa erano le terre nel mondo greco-romano. Ma guardi che sono d'accordo. Potremmo essere d'accordo incredibilmente. Ho la pubblicità, torno subito. Mi dedica altri 2 minuti dopo la pubblicità, grazie, se possibile. Non siete seri per niente. La Zanzara. Scusate se vi ho disturbato. Mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. La matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ciao Sescu, ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la porta. Non risponde, non risponde. Quale altro mostro è questo? No, ma è lui, è sempre lui, ma non risponde. Ovviamente non è rimasto in linea l'avvocato Giacchini. Ah, l'avvocato, certo. Principe del Toro. Vabbè, non risponde, dai, su, chi se ne frega. Qualcuno dice ti sei fatto dare del rozzo, ma se uno deve andare avanti in una, cioè, in se una conversazione. Ti sei fatto dare del rozzo, sì, da chi poi? Perché no, dai, ma lascia perdere da chi? Ma io ho detto scusa. Amico mio, io però ho ribattuto. No, ma lascia perdere l'avvocato Giacchini, a me non mi interessa chi mi dà del rozzo o non mi dà del rozzo, non è che faccio una classifica. Beh, a te sì, no, te sì, perché sei del politicamente corretto, per te le persone sono diverse, a me non mi interessa. Non faccio distinzione tra l'avvocato Giacchini e Umberto Eco. Scusami se sono fatto così. A seconda di quello che dicono, io valuto quello che dicono, non mi interessa se uno è Umberto Eco o l'avvocato Giacchini. Tu invece sì, storia, perché hai una tua visione che io rispetto, eccetera. Invece a me, se uno dice una cosa giusta, se uno dice una cosa giusta, non mi interessa che sia l'avvocato Giacchini o sia Umberto Eco. E io gli ho chiesto come? Ma lascia perdere, alcune cose giuste le dirà pure lui, no? Non è che sia solo un mostro e basta, come dici tu. Qualche cosa giusta la dirà sulla sepoltura di Pripp, che ha ragione lui, per esempio. Cioè, secondo me ha ragione lui. Comunque, in ogni caso, io ho chiesto semplicemente quanto ha guadagnato dalla vicenda Pripp, che dal punto di vista della parcella è un professionista, un avvocato, aveva un rapporto, come dire, fraterno, amicale, con il signor Pripp, che va benissimo. Dopodiché gli ho fatto questa. Chiamalo il boia. Ma il boia. boia, ma sì, ma dai, su. Diciamo del boia, capisci? Va bene, Giuseppe da Vicenza, buonasera, 800240024, Giuseppe, dica. Sì, buonasera Cruciani. Vada, vada. Allora, io voglio dire qualcosa che però che esula da quello di cui si sta discutendo questa sera. Era a proposito dei migranti oppure clandestini. Ma perché non finiscono i nostri governanti stracciarsi le vesti e di piangere, quando per risolvere il problema basterebbe mandare un bel traghetto sulle coste libiche o egiziane, caricare un migliaio di profughi facendoli anche pagare il biglietto, i soldi e le migliaia di euro? Poi mi spiega quello che vorrebbe fare lei, non ho capito che cosa vorrebbe fare. No, ho capito io purtroppo. Ferma il delirio la zitta. Tanto c'è un assessore leghista, credo di Cadorà. Sempre Eila. Sì, tu lo chiami così, sempre l'avvocato già che non risponde ovviamente. Dicendo Kyle, forse risponde, gli dici Kyle. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Lei ha poco da dire in questa vicenda. Non mi senti, molto non poco. Ti asseccarmi. No, glielo dico io, guardi, lascia stare lei che già... Vabbè Giuseppe, allora com'è che vorrebbe risolvere la questione degli extracomunitari? Non ho capito bene. No, io è un consiglio, un suggerimento ai nostri governanti, così le smettono. Ma qual è il suggerimento? Non ho capito qual è il suggerimento. Sì, mandare un bel traghetto davanti alle coste libiche, caricare tutta sta gente facendogli anche pagare il biglietto, invece che pagare 2 o 3 mila euro dollari che pagano per andare a morire in mare. Sì. Così cos'è che succede? Che li portiamo di qua, gli diamo da mangiare un pasto caldo, non muoiono più in mare. Risparmiamo milioni di euro di tutta sta gente, elicotteri, navi, aerei che vanno giorno e notte a cercare sta gente che crepa. Davide, rispondi tu, dai. No, voglio dire, il momento del razzista quotidiano ancora non è arrivato, perché stavamo, come dire, cercando di capire dall'avvocato Giacchini il futuro del cadavere in Trieste. Quindi capisco che lei si è inserito sull'onda di tutto questo, però non era ancora arrivata Radio Pripke, diciamo. Quando ci sarà Radio Pripke potrà telefonare e dire che sul cortile. Va bene, Luciano da Ascoli Piceno, Luciano. Pronto? Sì, dimmi. Salve Cruciani. Niente, la mia storia la racconto in breve. Io ma perché deve raccontare la tua storia, Luciano? Comunque dimmi, dai. Ti racconto quello che mi è successo. Vai. Visto che la legge è uguale per tutti. Sì. Praticamente ho ordinato da ormai 4 anni un prodotto su eBay, uno shampoo. L'ultima volta per questo sono stato arrestato, perché il drop test che mi hanno fatto risultava positivo. Quando invece... Non ho capito, Luciano, perché ti hanno arrestato, scusa? Mi hanno arrestato perché lì dentro dicevano che conteneva cocaina. Beh, Luciano, non è che arrestano le persone così. Le dico che arrestano le persone così, perché a distanza di 2 giorni mi hanno scarcerato e mi hanno detto soltanto scusa. Cioè, Luciano non ho capito, lei ha comprato su eBay che cosa? Uno shampoo. Uno shampoo. Ok. E allora? Esatto. E poi? E poi praticamente questo pacco che conteneva lo shampoo è stato fermato da quello che ha fatto la ricostruzione l'avvocato, è stato fermato praticamente alla dogana in Germania. Sì. Ok? È stato fatto il drop test, è stato spedito alla dogana a Brescia o a Bergamo, ora non ricordo bene. Vabbè, allora? È stato rifatto il drop test e poi sono venuti a casa e mi hanno arrestato. Il PM fortunatamente 2 giorni dopo ha fatto fare delle analisi e non il test, e lì dentro non c'è assolutamente Vabbè, un errore clamoroso, lei chiederà risarcimento e cose varie, allora qual è il problema? Perfetto, il problema è che a me non mi risarcisce nessuno, perché ma anche no, lei chiederà un risarcimento... Ma per 2 giorni non ti danno nulla, perché adesso lì non è il fatto che ti hanno arrestato, e contano soltanto i giorni che ti sei fatto. Per 2 giorni di galera praticamente a me non mi conviene neanche farmi fare la visita. No, è male, per vedere se... molto male, grazie Luciano. Gianni da Reggio grazie Emilia. A voi. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzio. Dica. Salute. Niente, volevo... Parenzo, dire una cosa... non Parenzio, Parenzo. Parenzo, vabbè, allora... chiedo scusa. Gianni. Allora, volevo... a esprimere una mia opinione su quello che avete detto, cioè la satira che avete fatto sui defunti. Ma quale satira sui defunti, scusi? La trovo una cosa proprio di pessimo gusto. Ma qual è la satira sui defunti, scusi? Quale satira abbiamo fatto sui defunti? Riguardo all'avvocato Agnelli, la voce del paradiso. Ma quella è una vita che lo facciamo, su Gianni, non ci rompa le scatole, dai, su. È una vita che facciamo l'imitazione di Agnelli da parte di Albertini, dai, era Albertini che imitava l'avvocato Agnelli e parlava di tante cose. La... Sono morti, lasciateli in pace, no? Cioè, guardi, non... Gianni, adesso pure questo, pure la polemica su questo vuole fare lei, oltre tutte le polemiche che ci sono, anche su questo vuole fare polemica, pure sul fatto che facciamo l'imitazione dell'avvocato Agnelli, e dai, su. La patonza deve girare. Adesso gliela rimetto. Antonio da Caserta, dai. Pronto, finalmente posso parlare con voi. Sì. Allora, in effetti volevo dirvi una cosa. Tu hai chiesto all'avvocato quando prende... Io vorrei chiedervi a voi quando prende per dire tutte queste cazzate. Tanti soldi. Qual è il problema? Adesso è fortunato. In particolare a Parenzo, che oltre a dire cazzate viene pure mortificato, vorrei chiedergli quanto vale la sua dignità. Nello specifico, visto che gli piace fare la persona di diritto, legalità, cioè no, quando lui diceva, parlava di Hiroshima e Nagasaki, giustificandolo come un atto dovuto, un atto normale, cioè poter ammazzare decine di migliaia di persone. Vabbè, ma qual è il suo problema? Scusi, non ho capito, Antonio. Qual è il mio problema? Io non ho problemi, il problema l'avete voi che dite un sacco di cazzate. Vabbè, allora lei l'ha già detta questa cosa, dunque? Dunque che cosa? Dunque voglio dire, perché riuscite a trattare in effetti con arroganza le persone che si pongono... Ma veramente lei sta, lei sta parlando... Io l'avvocato di Pib che vi cagate sotto, voglio no, dire... veramente non mi sono cagato sotto... Ti fai mortificare... Ma quando mai? Non mi sono fatto, fatto mortificare per nulla, caro Antonio, stai calmo, stai tranquillo... No, io sto calmo, beh, brucia... Stai tranquillo... Tu riesci solo ad atteggiarti quando trovi le persone... Devi stare tranquillo, devi stare tranquillo... Poi quando quello ti voleva pisciare in testa, sgarbi, no, non hai detto niente, ti avrebbe pisciato in testa e tu non gli avresti detto. Vabbè, niente. Ti sei sfogato? Ti sei sfogato? No, io sono tranquillissimo. Vabbè, sfogati pure. Passiamo a un altro Antonio. Bravo, ti sei sfogato. Antonio da Reggio Calabria. Adesso mi sfogo io, buonasera. Vai, sfogati anche tu, dai, che bello, vai, sfogati. No, dico, allora, lasciamo da parte Parenzo che non dica niente, perché se ci interrompe... prima ho telefonato una ragazza che non aveva i soldi per pagare l'affitto, gli ha detto di comprare la casa. Ma chi? Ma che non ha telefonato nessuno che non aveva i soldi di comprare... Che non pagava l'affitto. Sì, che aveva perso... Era su a Milano a fare non so che cosa... Ma che non, è pasto, non c'era nessuna ragazza che ha detto una come cosa... Come non aveva detto di affittarsi in una casa di comprare... Ma no, erano delle muto. Voci raccolte da quelli che hanno messo le tende a Porta Pia. Vabbè, allora? Allora, tu maltratti sempre le persone. Chi è che è in grado di comprare? Io una ho casa? Detto, caro Antonio, allora ci sono migliaia e migliaia di italiani che ogni anno si comprano la casa. Ci sono alcuni che non se la possono permettere e va bene, siccome la casa non è un diritto, perché non esiste il diritto alla casa. Non esiste il diritto alla casa scritto da qualche parte, non esiste. Mi dispiace per lei, ma non esiste. Non esiste, ma non lo so, ma non rompessero le palle occupando le strade. Tutta questa gente sfrattata, dove va a vivere? Ah, pubblicità. Bisogna trovare una soluzione. Sì, no? Sicuramente. Guardi, la soluzione è il mercato. Purtroppo esisteranno quelli che non ce la fanno, ma quello esisteranno in tutte le società. Non esiste purtroppo il diritto alla casa per tutti. È una cosa che non può esistere, ha capito? Non può sussistere in nessuna economia normale, in nessun paese normale. Cioè, ci sono quelli ma che... no, non esiste. Mi dispiace, non normale. È così. Ai tempi del comunismo tutti quanti avevano una casa di 3 metri ma quadrati, di 10 metri. La politica non ma così niente. È. Parliamo di pubblicità, umanità. Ma quale umanità? Diritto sì, al sì. Minimo indispensabile per sopravvivere. Pubblicità. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa. Ma vogliamo risentire Pier Ferdinando Casini ai tempi in cui fu innamorato di Monti. So che non è un argomento particolarmente popolare, so che non è un argomento che trascina le folle, le vicende interne a Scelta / Sciolta Civica, anche perché Sciolta Civica è una definizione sdoganata da Gerardo Greco, conduttore di Agorà, su Rai 3. Sentiamo l'amico Gerardo Greco, ovviamente non se la prenda male, ma ha centrato proprio il punto. Monti, l'attacco del governo, lo scioglimento, la liquefazione quasi di Sciolta Civica e poi ovviamente la questione dei giudiziari. Sciolta Civica, l'hai detto anche tu Gerardo, Sciolta Civica. Vabbè, Casini, quando era? Voglio Monti dopo Monti, dai, via. Cioè lei vuole Monti anche dopo Monti praticamente, questo è? Sì, stavolta ho capito bene. Le più volte non lo vedi mai. Carta bianca a Monti, novembre, un anno fa. ti ha beccato, ai ai ti ha beccato. Come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dallo... Faccia quel che vuole, noi lo sosteniamo, se vuole politici bene, se no tecnici. È un appoggio senza condizioni. Monti per noi a carta bianca, non perdiamo tempo e facciamo il governo. Beh, come passa il tempo, eh? Come passa il tempo? Come passa il tempo? È con noi Pippo Civati, candidato alla segreteria del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Non le fa un po' impressione sentire questa parola di Casini? So che a lei non gliene frega niente di scelta barra scelta civica, però certo che la politica... No, ci siamo tutti abituati, insomma, non è la prima volta che cambi idea. Ce ne sono altre poi, eh? In realtà quando diceva noi siamo qui in prima fila, no, dietro in seconda fila, davanti c'è Monti, una cosa pazzesca. Vabbè, gli innamoramenti in politica, anche lei sarà stata innamorata e poi c'è molto si è disamorato, no, Civati? Oppure è più fedele di solito? Ma tendo a essere più fedele soprattutto a quello che si promette agli elettori, perché l'operazione di scelta civica salvò Casini, salvò il centro, non salvò Fini, no, come tutti ricorderete. No, quello è vero, non salvò Fini. Però a Casini portò bene. Beh, perché in realtà lui pensa che scelta civica abbia affossato l'UDC, e vabbè, comunque qui siamo nel campo delle interpretazioni. Senta un attimo, ma lei darebbe del miserabile a Maradona come ha fatto Fassina, per quella, no? È l'argomento del giorno, so che non è granché, però è Maradona quasi che quasi fa... preferivo Casini. Però sa, Maradona che fa il gesto dell'ombrello, è una cosa che bisogna riconoscere, in Italia a Equitalia è una cosa estremamente popolare, cioè sarà pure brutale dirlo, sarà populista, però che uno che fa così a Equitalia oggi nel nostro paese è una sorta di re. O sì, no? Però non si deve fare, non è il caso che un uomo che deve 40 milioni di euro faccia il gesto dell'ombrello, insomma. Appunto. Sì, quello d'accordo, la Rai 3 chiede scusa, Fazio dice che bisogna parlare del fisco, non è nelle caratteristiche di Fazio, però forse dopo quel gesto dell'ombrello bisognava dire qualcosa. Lei non fa il gesto dell'ombrello a una, siamo nella televisione pubblica, a una struttura dello Stato comunque, o no? Secondo lei ha sbagliato in qualcosa Fazio? L'ha visto l'episodio? Ma secondo me la cosa più importante è che si recuperi, si spieghi come funzionano certe cose. Quando uno deve così tanti soldi al fisco, gli restituisca, appunto, cioè che Fazio dedichi un po' di spazio a questo concetto. È anche vero, bisogna dire, Parenzo, che non è che Maradona deve 40 milioni, è chiaro che poi le parcelle aumentano, però non è che ci siano 39 milioni di tasse in evase, qui ci sono le età e le multe, il tempo che è passato, i ricorsi, ho capito, ma 40 milioni... Con quei soldi si potrebbe anche contribuire ad abbassare la pressione fiscale, ad esempio, è per quello che la gente è incazzata nera, perché No, ma guarda no, che, è inutile io, che sono detto... convinto che purtroppo, dico da un certo punto di vista, Maradona che fa il gesto dell'ombrella a Equitalia, sono sicuro che nei sondaggi è molto popolare. Un attimo, c'è il traffico, se non sbaglio, poi torniamo con Pippo Civati perché ci devo raccontare un po' di cose. La Zanzara. Vado a stare svegli per amare. Sei ancora a casa, Simo? Vado a stare svegli per soffrire. Ma che fastidio, che fatica sopportare. Parenzo, secondo te come arriverà Civati nella corsa alla segreteria del Partito Democratico? Primo lo escludi, no? Giusto? Parenzo? David, che cazzo, ascoltami, no? Allora, come arriverà, arriverà Civati nella corsa alla segreteria del Partito Democratico? Già siamo messi... Arriverà diciamo primo, che... secondo, terzo, quarto, come arriverà secondo te? Ma perché gli dobbiamo... Secondo me terzo. Terzo, cioè primo arriverà Renzi, secondo te? Secondo potrebbe andare Cupolo che ha tutta questa macchina da guerra delle storie del partito, terzo lui e quarto e Pittella. Quarto io invece dico primo Renzi, Pittella. Secondo Civati, terzo Cuperlo e quarto Pittella. Ma secondo lei Civati c'è una specie di inciucio, come si è detto, tra Renzi e Cuperlo? Non che la cosa appassioni le masse, però anche qui. No, infatti io vorrei che parlassimo un po' delle proposte di ciascuno, c'è molto politicismo quello c'è in questo congresso del PD. Quindi non penso che ci sia un accordo, se ci fosse sarebbe insomma una grande occasione per far vincere a me il congresso, se si mettono d'accordo loro due. Perché dice? Perché? Beh, perché è un'idea di D'Alema, di solito le idee di D'Alema funzionano benissimo. Cioè se D'Alema è d'accordo su un accordo tra Renzi e Cuperlo, allora ci scappa pure che posso vincere, dice. A parte che nel PD fa carriera il vice segretario, non il segretario, per cui tutti cercano di arrivare secondo, secondo me. Lei dice tipo Franceschini, insomma, no? tipo Franceschini o Letta. Senta, quante sedute, o Letta anche, certo, quante sedute, cioè, per cui arrivare a fare il secondo di Renzi, il vice di Renzi, è quasi una fortuna, dice lei, potrebbe essere il colpaccio. Ma, non lo so. Io spero di vincere, però lei farebbe mai il vice di... lei farebbe mai il vice di Renzi? Mi dica la verità, farebbe mai... No, se Renzi dovesse vincere il congresso e me lo chiedesse, volentieri, perché no? Vediamo. Beh, come, scusi, però allora... Che battaglia è? Allora che battaglia è? Lei fa una battaglia per vincere con idee che sono molto diverse da quelle di Renzi, o comunque in gran parte diverse da quelle di Renzi. Lei vuole qual è il risultato, se vorrebbe dire che io sarei arrivato secondo, evidentemente non terzo, vorrebbe dire che il PD comunque cambia direzioni sul governo delle larghe intese, vogliono dire tante cose, dipende da come ci si mette, no? Non c'è un accordo, io sono competitivo e come d'accordo, questo da Renzi, però un partito si deve organizzare. Non direbbe di no, direbbe di no. Senta, invece mettiamo un'ipotesi, ma non un po'... credo che me lo chiederà comunque, era un molto difficile, di molto difficile. Da parte mia. Molto difficile. Scusi un attimo, ma mettiamo un'ipotesi in questo momento abbastanza fantascientifica, però ha una sua coerenza, perché sarebbe un PD de sinistra con lei. Lei è d'accordo con questa definizione? Vincessi io sarebbe un PD, come disse una volta Ferrara, de sinistra, o no? Sì, sarebbe un PD finalmente riconsegnato a se stesso e ai suoi elettori, quindi anche a sinistra, perché in questo momento non lo è. Sì, no, di quelle proprio definizioni, io so de sinistra, sai, i romani quando de sinistra del più. De sinistra, io so de sinistra, cioè un partito de sinistra, si riconosce in questa definizione, sì. Beh, se sinistra vuol dire fare le cose che negli ultimi anni non abbiamo fatto, certamente sì, se significa aprire una stagione, come dire, di coraggio anche nelle proposte, non solo nei toni, sì. Anche insomma, sono tante questioni. Abbiamo presentato qualche minuto fa i nostri documenti congressuali, ciascuno si può fare un'idea di chi ha la proposta migliore. È sorpreso del fatto che Briatore preferisca Renzi? Ecco, dice sì. siccome non, se non ci sarà Berlusconi, no, voto Renzi. No, direi che corteggia altro tipo di elettore, diciamo. No, d'accordo, lei perché mica Renzi l'ha corteggiato. Beh, ma non è che si schifa se... No, dico che quindi non mi dispiace non avere il sostegno di Briatore. No, non d'accordo. Non me lo sarei nemmeno mai immaginato. Ma è invece sorpreso del fatto che Briatore dice e dica non... Beh, è un po' che si frequentano, no? Ah, si frequentano, dice. Si frequentano. Beh, sì, sono andati a pranzo insieme una volta, ma... lei andrebbe mai a pranzo con... Lei andrebbe mai a pranzo con Briatore? Non credo, penso... Ma il voto di Briatore non lo vorrebbe? Come? I voti di quelli come Briatore, degli ambienti di Briatore, li vorrebbe o no? Ma non lo so quali sono gli ambienti di Briatore, io vorrei che votassero quelli del PD. Guarda, nelle ultime elezioni ne abbiamo persi 4 milioni del PD, quindi prima di arrivare a Briatore ci sono quei 4 milioni. D'accordo, però magari sono quei voti dall'altra parte che servono per governare, perché senza quei voti, diciamo, tendenzialmente moderati, ex berlusconiani, beh, magari non è il caso di Briatore. Però insomma è così, magari non si può, difficile arrivare al governo. Cioè non le fanno un po' schifo questi voti? No, non mi fanno schifo i voti di nessuno, i voti sono sempre belli e uguali tra loro, tra l'altro. Il punto è su quali basi ci si impegna, però, perché ho letto che Renzi dice voglio recuperare i voti del PD e del Movimento 5 Stelle, un po' di tutti. Io penso che noi dobbiamo fare una politica che innanzitutto ricostruisca il centro-sinistra, e sarebbe già sufficiente. L'avessimo fatto di più prima, queste ultime elezioni l'avremmo vinta, che eviti che si disperdano nel voto di protesta e di proposta, come dicono loro, di Beppe Grillo, che vadano quindi intanto a portare il PD ad una nuova condizione di partenza, che non è certo quella che abbiamo ora. E poi comunque oggi, caro Parenzo, Civati ha detto che PD SEL, insomma, vuole fare un bel partito di sinistra. Ma lei, per esempio, pensa che Napolitano farà tutti i 7 anni? Boh, non lo so, guardi, ho fatto dei conti, domani ne scrivo e ci sarà occasione di parlare. Questo percorso di riforme costituzionali è molto più lungo di quanto ci sia stato raccontato, per cui è molto probabile che se prevale la linea Letta si vada a votare addirittura nel 2016. Quindi capisce che se non sono 7 anni, comunque anche per Napolitano sono tanti, perché lui intende vigilare fino alla fine di questo percorso. Se ma secondo lei è giusto o sbagliato? È sbagliato arrivare fino al 2016, ovviamente. No, ma per me è sbagliato andare fino al 2016, ovviamente. È probabilmente molto sbagliato anche andare fino al 2015. Detto questo, Napolitano però è indipendente da questa decisione. Beh, insomma, non è indipendente. Può rimanere può rimanere Presidente della Repubblica fino alla fine del settennato, non c'è nessun problema. Senta una cosa, ma Parenzo, sei morto o sei vivo? No. Non ho capito. Noi facciamo un'ipotesi. L'ipotesi è questa: diventa segretario del Partito Democratico, dunque candidato a premier, cosa incredibile. Scivati candidato a premier, non ci sarebbe niente di male comunque, non è che sia una cosa così scandalosa. Lei, per esempio, si è mai ha mai pensato? No, ma non io lo dico sinceramente, non lo dico in maniera, come dire, per compiacerla, lo sai che non sono il tipo. Ha mai immaginato un governo? Lei, per esempio, il suo ideale come ministro, che ne so, come diciamo Civati presidente del Consiglio, ministro degli Esteri, chi farebbe lei? Un suo ideale? Ministro degli Esteri? Ma i ministri degli esteri ci sono, secondo me, tante competenze al PD, bisognerebbe scegliere. Io non sceglierei, come dire, figure del passato, neanche per le europee, così ti do già una prima indicazione. Sento che ci si parla di molti revival. Cioè, D'Alema candidato alle europee, secondo lei non è roba del PD, non deve essere? Penso che ci siano anche altre candidature da fare, diciamo, anche lì, insomma, non è sia candidato al Parlamento italiano, adesso si candida al Parlamento europeo. Viene dirottato al Parlamento europeo, sarebbe una cosa anche contraddittoria rispetto al fatto di no. Io vorrei che ci fosse da parte nostra la volontà davvero di mettere in campo una nuova generazione. Ho capito. L'attuale ministro degli esteri, peraltro, è una invece delle persone che io stimo di più. Che confermerebbe, diciamo, in teoria, sì. Che ne sì, so. Anche se forse, come dire, è il momento di fare anche per gli esteri una proposta, come dire, più che guardi più avanti, diciamo, no? Per dire, insomma, che ne so, all'economia chi metterebbe? Ma l'economia non lo so, io ho un ottimo economista che, visto che se io faccio il premier può fare benissimo il ministro dell'economia giocando con Cruciani, quindi si chiama Filippo Taddei. Vabbè, adesso Filippo Taddei. No, l'ho visto qualche volta. Conoscevate tutti i ministri dell'economia? Quando si cambia. E la giustizia? Vabbè, un nome forte, un suo mito, una persona che lei da giovane premier farebbe ministro della giustizia. Che ne so? Zagrebelsky, no. No, Zagrebelsky non credo di farlo ministro della giustizia. Certo è che lo seguirei quando parla di Costituzione molto di più di quanto non faccia il PD oggi. Ma il ministro della giustizia non lo so, non ci ho pensato. Non ci ha pensato. La prossima volta, quando dobbiamo formare il governo, vi chiamo. Lo so, agli interni, che ne so, io lo so, mi piace giocare con queste cose, solo che lei non si è preparato e dunque così. Io direi che all'interno potrebbe esserci un sindaco autorevole, magari Renzi. Renzi agli interni è stupendo. Renzi agli interni, vabbè, agli esteri non me l'ha detto, riconfermi da Bonino. All'economia, questo giovane economista. Alla difesa, perché ci mettiamo, che ne so, un pacifista, un... Beh, alla difesa un po' di, più che un pacifista, tu pur ci vorrebbe un europeista che non compra gli F-35 da soli, come stiamo facendo in questo momento, ma che magari ragiona in termini di difesa. Bendola. Bendola la difesa mi sembra un po' forte. Bendola magari... la difesa sarebbe stupendo, però. Però se ci fosse qualche dirigente di Sella che vuole concorrere, discuterei volentieri. Come sapete, appunto, io vorrei un PD che con Sella discute di tutto. Vabbè, senta, si è mai fatto una canna in vita sua? Sì, mi fa male, però, perché mi viene la tachicardia. Anche adesso, ha smesso subito. È un po' di anni, francamente, che non ci provo. Ma le legalizzerebbe le droghe leggere, lei? Io sono un antiproibizionista. Dunque, legalizzerebbe subito. Però uno, secondo me, dovrebbe avere il diritto di farsi una bella piantina di marijuana in casa. Una bella piantina di marijuana. Io non ho mai... Quantomeno bisognerebbe toglierla a fini Giovanardi, lo dico oggi volentieri, visto quello che è riuscito a dire Giovanardi oggi, tra l'altro. Oggi Giovanardi ha detto una cosa di cui non abbiamo discusso, ma che è interessante, sugli stupri. Ha detto... l'idea del sesso che c'è adesso facilita, non bisogna meravigliarsi degli stupri a Modena, perché l'idea del sesso che c'è adesso, che è una cosa di consumo, eccetera eccetera, porta a queste conseguenze. Cosa c'entrano gli stupri con, come dire, i costumi più facili dei ragazzi di oggi rispetto a quelli magari in cui era giovane Giovanardi? Io ancora non riesco a capirlo, però comunque delicato. Banalità, ecco. Banalità o no? No, banalità, è molto grave. Ma sì, è molto grave, perché quella ragazza che è stata stuprata, credo che dalla politica debba avere solidarietà e non esperimenti sociologici. Diciamo. Però non è che Giovanardi ha detto che lei si vestiva con la minigonna, eccetera, eccetera. Non è che ha detto questo, ha detto che l'idea del sesso che c'è. L'effetto che fa per me è terribile. Va bene, abbiamo la borsa, grazie. A presto, grazie a presto, a presto. Pubblicità. Ma Parenzo, lo pagate voi per stare in trasmissione? La Zanzara. Marco se n'è andato e non ritorna più. il treno delle 7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri. Che tu ne dica, caro David, è proprio finito, eh? No. Lo so, Marco, è finito, no, è finito. Sì. È lì che lotta. Aspetta, guarda, se tu senti questa cosa, poi dirai anche tu che è finito. Allora, noi abbiamo sempre questi piccoli siparietti su Marco Pannella. Questa volta è a Radio Radicale con il direttore Massimo Bordin. Ascolta. Tu poi a un certo punto direi, ma di che stiamo parlando? Cioè si mettono a discutere su una radio pagata da noi, parentesi, pagata da noi, però lasciamo perdere, questo è un altro discorso, di fogli, palinsesti, tu hai detto quello, le trasmissioni vanno messe a quest'ora, a quest'altro, una cosa pazzesca, senti. Palinsesto di Radio Radicale, Marco, tieni. Certo, grazie, la ecco. Guarderò con interesse. Allora, se lo vuoi cambiare... Sì. Se lo vuoi cambiare, allora guarda, il palinsesto di Radio Radicale ha una serie di programmi che vanno, ci sono tutte le associazioni, tutte in diretta, tutte le associazioni, tutte in diretta, non capisco, e come vedi è tutto no, io non vedo un cazzo, se mi permetti. Vabbè, tu non vedi un cazzo di... come dici molto urbanamente, però... potresti sapere. Scusami, sei un foglio tu, visto che non tutti sì, ti ho capito, ma questo ti hanno portato un foglio, foglio e tu dici come vedi questo foglio. Non vedo niente per il momento, raccordo per i nostri eccolo ascoltatori. Lì. Eccolo là. Adesso lui mi ha buttato un foglio che mi è arrivato coperto dalla parte bianca. Siamo in diretta. E a voi scritto. Che siete ascoltatori e non vedete. Ma no, vedo. Eccolo là. Eccolo il foglio. Ecco, ma ti voglio guarda, dire, è un foglio, lo faccio è vedere. È un foglio, fai vedere. Fai come vedere. Vedete? Ma di che stanno parlando? Di cosa stanno parlando? Parenzo, amico mio, di che parlano? È un palinsesto. È un palinsesto e questo palinsesto, Marco, lo tu guardando... fino a un secondo fa hai negato che Radio Radicale avesse un palinsesto. No, ecco il palinsesto. Ho detto che ci vuole su, un... E ho detto una cosa diversa. Andiamo, per favore. Ma che favore? Povero Bordin. Che bisogna sapere quando c'è la mezz'ora. Sta scritto lì. Ecco, ma qui c'è scritto e non è che io so. E non è che. Io so solo. Se sei in diretta tu non c'è. Io questo so è vero. Solo. Davide, ti prego. Davide. Lascio tutto. Giorno a quell'ora. Ma perché tu pensi solo ai radicali italiani? Guarda anche gli altri. No. Scusate se vi ho disturbato. Ancora. No, ma io quello che sto a dire. Ho capito che stai. No, non hai capito, non vuoi capire. Va allora bene. Insisto. Io vorrei. Non abbiamo sì, un palinsesto. Sempre Pannella Bordin. Abituali. Sappiano. Anche quando, quelli occasionali. Magari. Quando c'è. C'è scritto, sta lì, sta su internet. Ma cosa io, c'è scritto? Lì, l'orario dei programmi. Io nego. Neghi. Che c'è alle 11 la mattina. Glielo dice Martini. Italiani. Come voglio nega? Sapere. Ma lo c'è per gli altri 6. Sì, sta lì. C'è la mattina alla stessa ora. Mattina. Non c'è perché la mattina, hai la sera, il tu giorno. Hai deciso che devono andare la mattina. No, io dico che ci vuole. Ma di che parlano? Per ascoltare fissa tutti i soggetti politici. Sì, ma tu li vuoi che la vuoi cambiare? Questo è il punto, Marco. No, io non è che voglio cambiare. Tutto questo in diretta, voglio, a spese nostre. Principio. Ma c'è. Che si sappia sì, ma che a quell'ora tutti i giorni si sì. esprimono a quell'ora. Prezzo, hai capito di che parlano? Ma chi si esprima a quell'ora? Chi? Lo leggerò, ma nego che ci, nego che ci sia un'ora nella quale i sette sette organismi la stessa o un'ora? La stessa o un'ora? La stessa. No, la stessa, evidente che la no, stessa. Ecco, evidente che no. Per te e allora si discuterà. Allora si discuterà. Termine. La stessa ora per tutti e sette, ma quali sette? La stessa ora. Nel senso che sì. Noi abbiamo, per esempio, dopo anni mandata all'aria delle ore puntuali si discuteva dell'area balcanica la grande discussione sull'area balcanica, ma dai, su, dai, non sono decenni, non l'abbiamo mandata all'aria, l'abbiamo addirittura rafforzata Quindi vabbè, Parenzo, di la tua, dai, non ce la faccio più. Rafforzata l'area balcanica, no, l'area balcanica, perché abbiamo fatto anche l'ora di Esperanto, in cui abbiamo detto nel palinsesto di Radio Radicale Esperanto libero, e poi l'ora per Priske, libero, il diritto di Priske a essere Priske anche da morto nel palinsesto della Radio Raia. Non capisci un cazzo. No, beh, qui mi pare che tu, poverino, povere, ma perché? Ma perché mi consente? Ormai è tutto finito. Lo so, ho capito, Pomicino, ho capito. Scusate se vi ho disturbato. Dai, su. Siamo alla fine di tutto, dai. No, ma cucù. Scusa, dov'è, ma uno che si mette a discutere così? No, ma era lucido. In diretta, io non vedo un cazzo qui il palinsesto. Ma come sta qui il palinsesto? Guarda, ma perché le trasmissioni di Radio Radicale? Dai, su. Cucù, scusate se vi ho disturbato. No, vabbè, ho capito. Ma però, la radio pagavamo noi, però, ho capito. No, quel cucù lì fu straordinario, però, perché lui rientrò in studio, no? Sì, questo sì, ma infatti noi, ricorda, secondo me, com'era Stop at the Top? Come fanno? Lui rientrò in studio e poi devastò lo studio quel giorno. Sì, lì, sì, quel giorno lì, certo. Tu sai che i mitici amici della Festival del giornalismo hanno deciso di chiudere, di non farlo più, no? No, Stop at the Top, non è detto, sì, d'accordo, però Stop at the Top, più di questo non si può fare. Luigi da Pisa. L'unica cosa a cui do ragione a Marco Pannella, che Parenzo non capisce un cazzo, non capisce perché la gente è con Maradona e non, ma veramente lo dice pure a me, cioè, comunque. Sì, sì, lo so. Ma Parenzo, quello che c'è di problema è che non capisci che in metà degli italiani ha preso una cartella di Equitalia, o è ingiusto o è pazza. Tutti siamo vittima di questo ente. Beh, che non esageriamo, per anni un sacco di italiani non hanno pagato tasse, multe, sì, eccetera. Non esageriamo, poi possiamo criticare Equitalia, i suoi eccessi, eccetera, ma per anni, sì, la gente se n'è sbattuta, no, e guarda, la riscossione era nulla, dai, su, non diciamo stupidaggini. Sì, no, se mi permette, Equitalia prima cosa non rappresenta lo Stato, perché è una società privata. Vabbè, ma poi possiamo fare tutte le discussioni che vogliamo su Equitalia, vanno benissimo, poi, tutte le discussioni, si poteva fare diversamente, comunque, eccetera. Non scordiamoci che furono i governi di centrodestra a creare il mostro Equitalia, quello che poi, sì, divenne un mostro, non scordiamocelo. Allora, Luigi, comunque, su. Allora, per finire, il danno erariale di Maradona iniziale era di 2 milioni e mezzo nell'89-90, 2 milioni e mezzo, cioè 1250 euro, che sono diventati 39 milioni dopo 23 Io anni. Io non so, non ho queste informazioni qui. Fosse così, e non metto in dubbio che possa essere... Un attimo solo. Pronto. Oh, ministro, buonasera, come va? La Zanzara, ministro Cancellieri, salve. Buonasera, Cusciari, buonasera. Ancora. Come sta? Beh, stiamo bene. Contenta per la Roma, in fuga. Certo, certo che sono contenta. Lei pensi, in questo momento io sono in cucina e festeggio in cucina. Come sta festeggiando in cucina? Scusi, non è al ministero a lavorare, sono le 20:44 ancora. No, in questo momento sono in cucina, guardi. Andiamo su roba digeribile, ma gustosa. Sì, no, ho capito. Molto gustosa. No, d'accordo, io però le sto chiedendo un'altra cosa, ministro Cancellieri. Lei è molto simpatico, eccetera, ma sta godendo per la Roma in fuga o no? Sicuramente, certamente che godo. È proprio per questo che ho preparato delle cose così piuttosto leggere. Comunque. Ma ieri ha esultato quando ha segnato la Fiorentina contro la Juventus? Guardi, Cruciari, la fermo subito. Sì, la fermo subito, fermi, perché come in politica, così pure nello sport, ha un atteggiamento in tutto per tutto super partes. Quindi, credo, lei è romanista fragile, quindi, però, scusi. Guardi, Cruciari, quindi il responsabile è ampiamente condiviso. No, vabbè, d'accordo, ma questa che qua. Frega, ma che ci importa? Sarà Juve a Firenze, è imbarcato l'acqua e noi gli dimo. E noi gli famo, ha piato 4 gol e in fuga siamo. Questa l'ho locata. Ma questa così, l'ha inventata così sul momento. Estemporanea, sì, beh, certo. Beh, simpatico il ministro, no, David? Molto simpatico. Ma dico, il ministro della giustizia che si mette a canticchiare alle 8 un quarto, alle 9 meno un quarto che cucina a casa. Ma che roba è? Beh, ma i ministri di oggi sono. Non ci cruciale, perché lei non canticchia mai. Sì, comunque, no. Posso, mi permette, sì. Posso confidare una cosa, Cruciale? Sì. Dio quanto Battizza De Rossi. Beh, poi lo quella, sappiamo, lei. Poi con quella barba così incolta, sì, che sa di sudore, sa di pelo incarnato, a presente, sa di maschio. Proprio. Di maschio, ministro, ma lei ha una certa età, su. Ecco, lo sapevo, la solita stampa grillina. Ma non siamo grillini noi, che c'entra? Guardi, quelli travisano sempre, travisano sempre le mie affermazioni. Guardi, a poche cose io tengo, ma la neutralità per me è sacra. Vabbè, la neutralità, però lei non è neutra, nel calcio non è neutra, no? Ma mi visto che adesso... Che devo assaggiare un attimo. Che devo assaggiare? Manca un po' di peperoncino calabrese, bisogna aggiungere. Beh, ho capito, però, ministro, adesso stiamo... Ho capito, sarà insipido, però stiamo parlando di calcio. Scusi, ha visto che Totti resta fuori un mese, no, ministro? Purtroppo questa è una brutta tegola, Cruciani. Lo so, è una brutta tegola, sì. Però sa cosa le dico? Io devo pensare pure all'ottice, però... ci stavo De Rossi, quindi... Va bene così, va bene mi dispiace così. Per tutti. Comunque, De Rossi, Matizza, lo so. Certo, se poi mangio roba, come ho detto, perché stiamo mangiando cose piccanti. Certo. Insomma, ma scusi, chi le piace ancora della Roma? Questo Sabatini, questo direttore sportivo, com'è? Sabatini, le immagini, che parte Sabatini, il direttore sportivo, che lei ha citato giusto appunto, venne spedito al supermercato. Come al supermercato? Al supermercato, e Sabatini pensa, se te compri un chilo di carne, te fa comodo, ma bello mio, certo che fa comodo, poi però lui dice che non c'è i soldi per la carne, allora che facciamo? E non si preoccupi, faremo con le uova. Sì, ma non è che è applicabile. Abbiamo fatto, ma non è applicabile a tutto, anche al calcio questa cosa, vabbè, comunque. Sì, che poi le posso dire un'altra cosa? Mi dica, mi dica. Sabatini è pure un bel uomo. Pure lui. Questo look trasandato, quasi da poeta maledetto, questa barba incolta, tosse, grassa, manco una cisterna di espettorante all'eucalipto riuscirebbe a addirittura. Vabbè, però ministro... come Matizza De Rossi, lo so. Ci sono assolutamente parole. Vabbè, com'è che l'inno della Roma, scusi ministro, che lei me lo ricorda sempre? Roma. Vabbè, è andata, parece. Ministro, grazie. Il decoro istituzionale. Grazie. Buonasera. Gennaro da Napoli. Decoro istituzionale. Buonasera, Cruciani. Buonasera. Senti, io volevo intervenire sulla questione di Maradona. Sì, dica. Allora, volevo chiedere una cosa, ma Maradona era un dipendente della società Calcio Napoli. Sì. Ora, qualsiasi dipendente di qualsiasi società prende uno stipendio netto, poiché a monte gli vengono trattenute. Sì, ma non è sullo stipendio. Guardi, il dettaglio delle cose non le so. Probabilmente ha ragione l'ascoltatore precedente. C'era una contenzioso fiscale che è stato trascurato da Maradona negli anni passati, che è diventato, come tutte le cose in Italia, di 39 milioni di euro adesso. Cosa vuole che le dica io, Gennaro? Cioè, adesso non ci mettiamo a discutere della questione legale, della questione, no, della questione di cui si occupa l'avvocato di Maradona, Equitalia, eccetera. È stata cercata una transazione che non è andata bene nei mesi scorsi. Sì, no, ma la questione di Maradona è semplice. Praticamente lui percepiva uno stipendio netto e la società non ha versato le tasse. Ora, se Radio 24 a lei, per esempio, non le paga i contributi, ok? Perché qua è una questione di tutti i calciatori. Ho capito, Gennaro, però non mi venga a porre a me questa questione, perché io non le so dare una risposta a questo. Io so solo che... Dico solamente questo, che se domani mattina la Juve non paga le tasse a tutti i calciatori della Juventus... Mario da Campobasso, buonasera. Buonasera. Dica. Inviterei il politicamente corretto Parenzo a essere più educato, sì, perché lui ha parlato in questa trasmissione amabilmente con Giusva Fioravanti, sì, e ha trattato in modo irriguardoso e irrispettoso un avvocato che ha fatto solo il suo lavoro, perché sì, lo Stato che lui ama, che lui tanto ama, prevede per tutti il diritto alla difesa. Sì, sì, no, ma lei può dire quello che vuole su Parenzo, qui Parenzo resta qui a rispondere. Ma Vabbè, Parenzo, siccome difende Prip, che le sta sulle palle l'avvocato Giachini, cosa vuole che le dica io? No, mi sta sulle palle non il modo come lo difende, perché quello, il diritto alla difesa, che stupida, che banalità, è evidente che in democrazia. Però un attimo, voglio sentire Rita da Milano. Rita. Sì, buonasera. Dica. Due considerazioni rapide. Parenzo è un mito totale, assoluto e indiscusso. Complimenti, Parenzo. Invece Cruciani, è imbarazzante vedere quanto lei sia forte coi deboli, debole coi forti. Sì, certo. So che per lei non è una novità. Solite però robe, dico, solite polemiche ridicole. Sì, dai. Però guardi, se il signor Pincopallo avesse detto le cose che ha detto Taormina sui gay, lei l'avrebbe massacrato. Ma Taormina sui gay le cose gliele faccio dire io. Ma le faccio dire io a Taormina le cose sui gay. Voglio che le dica. Lo spingo a parlare di Giachini che l'ha zittito ripetutamente. Ma Giachini ha detto semplicemente che sono buonasera. Rozzo. Io gli ho detto Rita, complimenti per Enzo. Sì, complimenti per Enzo. Io l'amo. Benissimo. Toccate, va. Mandalo, anziché mandare io amo dell'utero, manda questo. Toccati da qualche parte, va. Tocca ferro, tocca qualcosa. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. C'è l'invasione dei froci. La Sicilia è invasa dai froci. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente. È una cosa assolutamente insopportabile, guarda. Radio 24. La passione si sente.